Esatto. Iniziamo da un personaggio che è impossibile che qualcuno non conosca. Si tratta di David Bowie, con forse uno dei brani più commerciali che più spesso riproposto all'interno dei suoi live, che si tratta di The Gengini, che è il primo singolo estratto da Aladdin Sane, il disco che ha sancito insomma la figura di Ziggy Stardust, uno dei tanti personaggi multiformi che David Bowie durante la sua carriera ha rivestito. Tra l'altro, io e Ilaria abbiamo avuto la fortuna di andare a David Bowie's, la mostra che è stata al Mambo l'anno scorso, curata da appunto i curatori del Victorian Albert Museum, che esponeva, oltre a reliquie diciamo personalissime di David Jones, esponeva anche per esempio la tuta Kabuki, che c'era un'intera sezione dedicata comunque a Ziggy Stardust. Esatto. E poi tra l'altro è bellissima l'installazione che hanno fatto nella sala finale, che era una sala immensa dove ogni tanto comparivano dei vestiti sulle pareti, erano tipo inseriti in queste microstanze col vetro, solo che ogni volta ne appariva uno diverso e tu ti rendevi conto che in realtà eri circondato da, non lo so, 500 vestiti, sì, vestiti diversi di scena, tra l'altro alcuni reali, realmente indossati da David, altre riproduzioni fedelissime. Sì. Per lanciare però questo brano vorrei leggervi un articolo molto interessante che è stato pubblicato da Aura Crave, che è questo portale di informazione culturale, che vi fa capire, vi fa entrare dentro quella che è realmente lo spargimento di un vero e proprio imperativo in fatto di estetica, moda, cultura e insomma modo di presentarsi davanti alla gente. Una delle carriere più grandi dello show business e dell'evoluzione dello stile, che inizia la sera del 19 agosto 1972 nella sala di quello che negli anni 30 era il più grande cinema del mondo, la Storia, conosciuto anche come Rainbow. Quel concerto dava inizio al tour di promozione di un album fantascientifico sulla storia di una pop star di nome Ziggy Stardust. Davanti a un pubblico di produttori discografici, giornalisti e celebrità come Mick Jagger, Lou Reed, Alice Cooper, Rod Stewart e Elton John, va in scena uno spettacolo epico che dà origine al fenomeno del glam rock, alla sfida ai canoni tradizionali della mascolinità e alla trasformazione della rockstar in un'icona di stile. Quindi, se le rockstar dettano imperativi in quanto stile, dobbiamo sicuramente dire grazie a David Bowie, e io direi che possiamo ascoltarci dei Gengini. Flashback blazers and ate all your razors while pulling the waiters, talking about Monroe and walking on Snow White. New York's a go-go and everything tastes nice. Poor little greenie. Get back on. Gene Genie lives on his back. The Gene Genie loves chimney stacks. Like a reptile, she loves him, but just for a short while. She'll scratch in the sand, let go his hands. He says he's a beautician, sells you nutrition, keeps all your dead hair for making up underwear. Poor little greenie. Gene, let yourself go. Martedì 13 marzo 2018, ore 15.06, questo era Bosco e questo è Bosco e questo era David Bowie. Ebbene sì, bellissima tra l'altro. E in tutto ciò Chiara ha trovato, cosa ci scrive Giuliona? Che siamo troppo intellettuali. Insomma, io ho appena fatto una ripetizione davvero solo perché volevo prendere l'attacco, la chiusura giusta di questo bellissimo pezzo. Mi sono un po' ingarbugliata, però vabbè, cioè non è vero secondo me che siamo troppo intellettuali, ma non è vero palesemente. Anche perché tra l'altro lei ci conosce sul serio, quindi esatto. Mi domando per quale motivo. Come faccio a pensare queste cose? Ma signorina Chiara Trovato, ma ci dica. Ma per favore. Ma per favore, ma per piacere. Ma passiamo al prossimo brano, al prossimo artista ed entriamo, ma ci siamo già dentro ovviamente con David Bowie, ma entriamo in in quell'ambito specifico dell'estetica che si è diciamo riversato completamente sul rock ed è nato un movimento che ha completamente invaso gli anni 70 ed è il movimento del glam rock e quindi di conseguenza di tutta quella sfarzosità che ha portato ai Kiss, agli Stones, agli Stooges, che poi avremo anche ovviamente in scaletta, quindi mi raccomando, esatto, state sintonizzati qui su Radio Città Fucico e soprattutto scriveteci al 333 180 9494 perché ne sentiremo davvero vero delle belle. È una puntata sull'estetica, ne sentiremo delle belle. Come sono simpa. Comunque, cara la mia Giuliona, cosa sì, stiamo per andare ad ascoltarci? Allora, siamo in dirittura di Elton John. Elton sì, John che purtroppo non si è risparmiato in presenze nella nostra TV italiana. Mi ricordo le ospitate memorabili da Fazio o a Sanremo. Mm-hmm. Comunque Elton John con The Beach Is Back. Esatto, The Beach Is Back, che è tratto da Caribou del 1974, il decimo album uscito appunto per Elton John. E ovviamente non potevamo non prendere in considerazione l'uomo dai tacchi più alti della storia, perché io, cioè, quando abbiamo deciso l'argomento, proprio il primo personaggio che mi è venuto in mente è stato Elton John, perché mi ricordo questo video di Elton John completamente vestito di glitter, ok, con questi stivali altissimi, con dei tacchi altissimi e questi occhialoni giganteschi, ovviamente i classici occhialoni a culo di bottiglia, come si suol dire, e proprio io non ho potuto non pensare a questo, perché effettivamente anche lui è stato un'icona appunto del glam rock. Ma io direi che possiamo tranquillamente andarci ad ascoltare appunto il brano The Beach Is Back, ovviamente io non potevo non scegliere questo brano, di Elton John, tratto da Caribou del 1974. Time to change and now the war gets back, but the The Beach is back and The Bosco is back. Esattamente. Ma anche The Beach is back va bene uguale. Nel che senso. Tanto allora The Beaches are back. The Beaches mettiamola al plurale così ci sentiamo. Esatto. Ben partecipative. 15:13 Bosco Radio Città Fujiko, puntata tutta dedicata all'estetica nella musica e a quanto la musica e le icone musicali siano state pervasive in quell'insieme di atteggiamenti culturali che hanno caratterizzato le nostre vite. Ma anche non soltanto atteggiamenti culturali che riguardano il vestiario o la creazione di personaggi, ma anche vere e proprie mosse, perché ovviamente non potevamo non parlare di mosse. La mossa, capito? Una delle mosse più famose, di modi di stare sul palco più famosi in assoluto, non poteva che non richiamare Mick Jagger, ovviamente. Mick Jagger, che è un frontman, che Ken se ne dica, incredibile, una persona che riesce a mantenere il palco in una maniera che i giovani stentano a fare veramente, e che a qualcuno dice anche che i Rolling Stones abbiano anche fatto la storia della musica. Poi vabbè, questo è tutto da vedere, perché erano un po' contrapposti ai Beatles. Poi bisogna vedere, nasce così la diatriba famosissima di Bosco: sono meglio i Beatles o i Rolling Stones? Scrivetecelo al 333 180 9494. Ovviamente i più appassionati del programma sapranno che ovviamente noi, diciamo, siamo più delle groupies, quindi essendo veramente delle groupies, diciamo, della Londra centro, sì. Ecco, della Liverpool, anzi, facciamo così, probabilmente preferiremmo invece i Beatles e i loro caschetti dell'inizio, ma vabbè. Esatto. Tuttavia, comunque, gli Stones appunto si sono imposti come una vera e propria icona, ma anche un'icona dissidente, ovviamente, con i testi delle loro canzoni, perché erano i brutti, sporchi e cattivi, quindi erano contrapposti ovviamente alla figura pulita dei Beatles, perché si presentavano all'inizio, esatto. Poi non lo sono stati, però come figura pulita della musica, i ragazzi acqua e sapone, no? I, esatto, giovani puliti, gli sbarbatelli, esatto, i ragazzi della porta accanto, eccetera eccetera. E poi arrivavano gli Stones con le mosse indicibili sul palco, arrivavano gli Stones che appunto erano i brutti, sporchi e cattivi, arrivavano gli Stones che riprendevano quel blues cattivo di Muddy Waters, quindi praticamente portavano qualcosa di completamente nuovo. E tra queste cose completamente nuove nasce un brano che è Gimme Shelter, che è appunto tratto da Let It Bleed del 1969, e io direi che possiamo tranquillamente andarcelo ad ascoltare. Rolling Stones con Gimme Shelter, e ce la siamo anche cantata e ballata tutta io e Giuliana, ma spero tanto anche voi. Fatecelo sapere al 333 180 9494. Mi sento sempre una maestra dell'asilo quando faccio questa voce, ma lo sei in perché realtà perché non riesco. Beh, che bello. No nel senso boh, hai questo fascino da... Da maestra dell'asilo. No, è che tu sei molto pacata, spieghi le cose, non lo so, io ti immagino, cioè secondo me potrebbe essere un tuo potenziale lavoro, ma non è un no, insulto. No, vorrebbe dire prendere altre due lauree, non mi va. Hai ragione, scusa, già, non pensiamo troppo in grande, non facciamo soprattutto troppo le intellettuali, ah, per qui favore, mi scrivono, eh? Ma lo vuoi dire piano il numero? Va bene, 333 180 94 94. Se volete faccio anche a turni di quattro numeri. Sono ormai mi diverto un sacco. Boh, no, dai, puoi dirle in maniere differenti. Comunque cambiando l'ordine delle addendi il risultato non cambia, ma hanno ragione i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. 333 180 9494. Esatto. E Rosanna, che è la persona che tra l'altro mi ha scritto questa cosa, la saluto, scrive ciao Rosanna, ciao. Bene, Rosanna, sai che cosa stiamo per passare adesso? Allora, abbiamo parlato di dissidenti della musica e abbiamo iniziato con i Rolling Stones, che appunto sono stati anche rappresentativi di quello che abbiamo iniziato, di cui abbiamo iniziato a parlare prima, che è appunto il glam rock o il blues rock, insomma, anche. Gli Stones sono stati sì dei dissidenti, dicotomia nei confronti dei Beatles, ma ciò che veramente ha portato, diciamo, ad essere un'icona non del pop ma soprattutto del rock e del punk, del garage rock, sono stati gli Stooges. Gli Stooges, con ovviamente capitanati da Iggy Pop, anche soprannominata l'Iguana, chi ovviamente tutti noi quando pensiamo di Iggy Pop pensiamo a lui con questi pantaloni attillatissimi, ad una vita iperbassissima, ok, a petto nudo, con il petto completamente gonfiato, e anche quello è appunto sono diventati di fatto un'icona della musica a tutti gli effetti. Iggy Pop e gli Stooges insieme ai Velvet Underground e gli MC5 sono poi quei gruppi che hanno dato vita a quello che diventerà poi il punk rock, e quindi non possiamo ovviamente non inserirli nel nostro elenco di icone di stile. Esatto, io ho alzato la manina come una bravissima nonna davanti a una maestra delle elementari barra d'asilo. Perché? Perché purtroppo o per fortuna sono sempre a contatto con gente che ha voglia di guardare film, soprattutto docufilm. E quindi, a proposito degli Stooges di Iggy Pop, vi ricordo che è uscito un meraviglioso documentario che ho avuto la fortuna di guardare, molto bello, che è Gimme Danger, il documentario su Iggy Pop, appunto sugli Stooges, fatto da Jim Jarmusch, che è un regista pazzesco. Ora, io non è che sono così tanto cinefila, però in realtà con il tempo, anche a grandi dosi massicce propinate a ogni giorno e ogni ora, diciamo che sono riuscita a guardare un po' di robe di Jim Jarmusch ed è davvero super bravo. E se non erro, lui ha fatto un altro film molto bello che è Solo i Levanti Sopravvivono, che in realtà è una storia romanzata di due vampiri, non pensate a Twilight, in realtà è una bellissima sceneggiatura, ma la colonna sonora si sbrilluccicano ma la colonna sonora è meravigliosa perché ha una grandissima attenzione nella scelta delle canzoni e della musica. Tu lo conosci Jim Jarmusch? No, sono ignorante. Adesso un attimo faccio la wikipediata della puntata, che così almeno siamo a posto. Intanto vi informo appunto riguardo al brano che intanto, senza parlare del brano, mi scrivono: e a me non mi saluti, brutta animale da pascolo. On to lie di leggere il mio messaggio. Dedicami una canzone d'amore. Mi dispiace, ma la prossima, più o meno in un certo senso potremmo definirla canzone d'amore. E la prossima canzone è I Wanna Be Your Dog. Ok, I Wanna Be Your Dog degli Stooges, tratta dall'album The Stooges, che è appunto del 1969 ed è il primo album, l'album d'esordio appunto della band suddetta. Tu hai trovato la pagina Wikipedia? Sì, avevo ragione, che Jim Jarmusch ha anche diretto Solo gli Amanti Sopravvivono, ma anche aspetta, dove era? Coffee and Cigarettes, che forse è il più famoso, perché insomma sono piene per Bologna le sue locandine, almeno a me è parso così, non l'ho mai visto, diciamo che stasera abbiamo qualcosa da fare, ma bene, soprattutto l'ultimo, tra l'altro, proprio film è il documentario sugli Stooges, quindi andatevelo a vedere. Hanno una, insomma, la storia del rock è pazzesca e noi ce l'ascoltiamo subito. I Wanna Be Your Dog degli Stooges. Thank you. intoxicated by thee. She has the slow sensation that he is levitating with she. La Gunuai has been so ceaselessly till I lose my sense of gravity. I'm dancing barefoot in mid-icemen. Some strange music draws me in, makes me come on. What is it that calls us? Why must we pray screaming? Why must not death be redefined? We shut our eyes, we stretch out our arms, and we're on a pane of glass. An asphyxiation, a fix on anything. The line of life, the limb of the tree, the hands of he, and the promise that she is blessed among women. Dancing Barefoot di Patti Smith. Siamo qui di nuovo, sono le 15:36, questo è Bosco e oggi parliamo di estetica, icone che hanno fatto la musica, non solo icone come personaggi, ma personaggi che creano icone, quindi mosse, modi di vestirsi, modi di interpretare la musica, modi di affrontare la musica completamente diversi, e vedremo anche ovviamente nel corso della puntata cosa significa. Abbiamo appena ascoltato appunto Dancing Barefoot di Patti Smith, tratto da Wave del 1979, album che ha pubblicato con il Patti Smith Group. Ovviamente Patti Smith non potevamo non nominarla perché diciamo che è un'icona anti-icona. Vero. Ok? E quindi di conseguenza lei si presenta, lei prende tutto quello che è nato ovviamente dal 68 in avanti e lo trasporta nella sua musica e lo trasforma nel protopunk ed entra a tutto diritto in quella che poi diventerà negli anni 80 ovviamente la new wave. È sostanzialmente, lei è una è un precursore, non credo che esista il femminile purtroppo in questa lingua. Vabbè. Se esista. Lei anticipa, ok, i tempi in poche parole e appunto poi porterà quello che è stato la new wave, non solo, ma anche diciamo tutti quei diciamo quelle prefazioni con art pop, art rock, art questo, art quell'altro. Lei diciamo un po' ha fatto appunto da apripista in questo senso, anche grazie a una sensibilità tutt'altro che semplice appunto di Patti Smith. Assolutamente sì, non aveva una sensibilità convenzionale, si può dire, ma tutti gli artisti ce l'hanno, solo che alcuni parlano direttamente alla pancia. Una esatto. Di queste è Patti Smith, un altro di questi secondo me è Johnny Cash. Per costruire questa puntata, diciamo che aleggiava nelle teste di mia e di Laria, perché non ci crederete mai, ma abbiamo ben due teste. Pazzesco, pazzesco. Ho chiesto un po' di aiuti in giro, nel senso che diciamo che il mio dominio è tutt'altro da quello di Johnny Cash, eppure Johnny Cash è un artista che volentieri ascolto. Vi ricordate come era soprannominato? Se ve lo ricordate, scriveteci al 333-180-9494, oppure ve lo diciamo noi adesso, era tutto un pretesto per farvi intervenire in puntata. Lui era... No, non dirlo. Ma c'è tutto un discorso da fare. Vabbè, allora vi diciamo che lui si presentava sul palco in una certa maniera, vestito di un certo colore, con un certo atteggiamento. Tra l'altro, diciamo che dopo Johnny Cash, molti artisti l'hanno emulato, non solo per quanto riguarda lo stile del vestiario, ma anche per l'atteggiamento. Era prima di tutto un tossicodipendente, abusava di anfetamine e barbiturici. E molto spesso la droga come diciamo asindeto di o come diciamo aggiunta a un certo tipo di processo creativo lo lo aiuta ad esprimersi. Stavo dicendo lo coadiuva, ma poi ho ricevuto il messaggio: siamo troppo intellettuali, quindi non lo dico più. Come mi ricordo quella volta l'anno scorso, nella scorsa stagione, in cui io dissi terrigeno, che è diventato ovviamente l'hashtag della scorsa stagione di Bosco, terrigeno. Quell'altra volta tu ne hai detta un'altra, io me la sto dimenticando, ma meno male perché non basta mettermi la berlina davanti alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. Comunque, piccola parentesi, sì. Se vi siete persi le puntate di Bosco, seguiteci sulla pagina di Facebook, perché ogni settimana pubblichiamo il podcast della settimana precedente, quindi potete andarvela ad ascoltare e potete trovare appunto le parole auliche che Giuliona ovviamente ha detto durante ogni puntata, e condividetele, mi raccomando, con l'hashtag terrigeno. Esattamente, condizio sine qua non, appunto, nel prossimo podcast condizio sine qua non sarà inserita all'interno della rubrica parole astruse e non parole dell'Artusi, per chi ama i giochi di parole mi capirà. Comunque, Johnny Cash, non siete arrivati in tempo, era soprannominato The Man in Black, e lui spiegò questo suo stile con queste parole. Allora, praticamente inizia a cristallizzare il suo vestiario intorno agli anni 70. Se prima era sporadico vederlo interamente in total black, questa volta invece è abitudinario. L'uomo in nero. Nei concerti, infatti, si esibiva regolarmente vestito di nero, indossando un lungo cappotto anch'esso nero. Questo modo di vestire era in netto contrasto con gli sgargianti costumi colorati e i cappelli da cowboy indossati dalla maggior parte dei cantanti country dell'epoca. Nel 71 scrisse a proposito la canzone Man in Black per spiegare il suo stile d'abbigliamento, e dice: indosso il nero per i poveri, per gli oppressi che vivono nel lato disperato ed affamato della città, lo indosso per il detenuto che ha a lungo pagato per il suo crimine, ma è lì perché è una vittima dei tempi. Insomma, quindi sostanzialmente lo vestiva per motivi politici. E insomma, ora è partita I Walk the Line, è qua sotto, cosa fare, non farla ascoltare? Ci ascoltiamo I Walk the Line, un pezzo bellissimo, immaginatevi vestiti di nero. I keep a close watch on this heart of mine, I keep my eyes wide open all the time, I keep the ends out for the tie that binds, because you're mine, I walk the line. I find it very, very easy to be true, I find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you, because you're mine, I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night, and happiness I've known proves that it's right, because you're mine, I walk the line. You've got a way to keep me on your side, you give me cause for love that I can't hide, for you I know I'd even try to turn the tide, because you're mine, I walk the line. I keep a close watch on this heart of mine, I keep my eyes wide open all the time, I keep the ends out for the tie that binds, because you're mine, I walk the line. I I Walk the Line, Johnny Cash. Sono le 15:43 e questo è Bosco, che si concentra oggigiorno nel descrivere le più grandi icone musicali e la loro estetica. Oggigiorno e si concentra in un tono pomposo, perché solo con toni pomposi si può introdurre il prossimo artista, vero Ilona? Ebbene sì, perché siamo per... non lo so, mi viene da urlare in questo momento. Mi sento una di quelle ragazzine che urla sotto il palco, perché si poteva fare soltanto questo quando lui saliva sul palco. Si poteva soltanto urlare e soprattutto fissarsi su quel suo ciuffo arrotondato impossibile da riprodurre. Stiamo parlando ovviamente di Elvis Presley. Esattamente, istrionico, poliedrico, fondatore dello stile rockabilly, che è proprio quello stile di richiami anni 50, con tupè, banane in testa, brillantina, un po' lo stile anche di Grease, capito? Queste tute un po' militari, mm-hmm. Per esempio usava spesso esibirsi con queste tutine. Io me le ricordo nei video che guardavo da piccola a casa, una bianca a strisce rosse, con questo savoir faire sul palco, questa capacità di fascinazione speciale, pazzesca, un contatto visivo reiterato con il pubblico. Insomma, era davvero, io direi, il primo sex symbol nella storia della musica. Esatto, perché proprio quello che creò fu... cioè, nel senso, quello fu l'anno, ovviamente, sia, diciamo, per quanto riguarda la musica nera che la musica bianca, perché dobbiamo fare una distinzione per quegli anni, ovviamente, perché hanno due modi di affrontare la cosa diversa, ovviamente. Da una parte il bianco a cui sapone, dall'altra invece il nero che ti porta il dirty, lo sporco, eccetera, eccetera, la musica che parla veramente al suolo, alla terra, capito? E a un certo punto si incontrano. Uno di questi incontri è appunto Elvis Presley, che appunto prende molto spunto dalla musica nera e trasforma quello che poi vedremo appunto con la prossima canzone dopo Elvis Presley, quello che è stato Chuck Berry, lo trasforma in qualcosa di completamente nuovo e diventa un sex symbol, perché diventa proprio anche il suo modo di affrontare il palco, diventa anche... cioè si trasforma anche attraverso questa sua attitudine, capito? E diventa anche dissidente, tant'è che tipo mi ricordo, non mi ricordo la canzone, perché per ignoranza ovviamente non mi sto ricordando il titolo, ma c'è stato un episodio dove per evitare che lui andasse in televisione trasmettendo questo suo modo da iper sex symbol, lo fecero cantare con un cane. Dimmi il titolo della canzone, Giuliona, è famosissima. 333 180 9494, per favore, chiudete il buco della mia ignoranza, in poche parole. Beh, in premio garantiamo indumenti usati e sudati in questa giornata inaspettatamente calda da Ilona e Giuliona. Pertanto, feticisti che ascoltate Radio Città Fujiko, scrivete al 333 180 9494. Senza un premio la gente non la muovi, su. Comunque, lui che cosa fece? Praticamente salì sul palco e lo facevano cantare appunto cantando ad un cane, ok? Lui a un certo punto si rifiutò per sta cosa, perché ti pare che devo salire per cantare ad un cane, praticamente, perché dovevano appunto edulcorare in un certo senso questa sua attitudine. Edulcorare nella rubrica di settimana prossima. Ma non ci riuscirono per niente, e forse il prossimo brano ce lo dice anche. Esatto, il prossimo brano infatti è You're the Devil in Disguise, un brano del 1963, un brano che tra l'altro si trova all'interno anche di un cartone animato nella colonna sonora di Lilo e Stitch. Quindi sicuramente una volta nella vita, voi giovani ascoltatori, sì, You ain't nothing but a hound dog, glielo fecero cantare con un cane. Cioè, ho avuto l'illuminazione. Guarda, mi ha anche spaventato. Pensavo, oh mio Dio, vado subito a chiamare il direttore. Ma noi ci ascoltiamo invece You're the Devil in Disguise, tratto appunto da un 45 giri. E nel side B c'era Please don't drag that string around. Cavolo, che sciogli lingua. Sembrava avessi una cingomma in bocca. You're the Devil in Disguise, Elvis Presley. Like an angel, look like an angel, walk like an angel, walk like an angel, talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise, oh yes you are, devil in disguise. You fool me with your kisses, you cheated and you schemed. You're the Devil in Disguise, Elvis Presley nel 45 giri da cingomma che vi ho appena pronunciato prima di ascoltare il pezzo. Questo è Bosco, io sono Giuliona. E io sono Ilona. Ricordiamo sempre chi siamo, perché sai, sì, è già una rarità. Ogni tanto me lo scordo. Ma sì, quello sicuramente, ognuno di noi. Però sai, è un po' una rarità quella di essere qui in studio dopo tanto tempo. Quindi ricordiamo alla gente che comunque esistiamo anche noi, abbiamo voce in capitolo e chi che se ne dica, siamo pronte a donare i nostri indumenti sudati a chi interviene al 333-180-9494. Ovviamente in cambio di soldi, perché siamo povere. Sì. Per l'IBAN ci scrivete in privato e noi vi diamo il nostro IBAN, così potete caricare lì dei soldi che noi utilizzeremo a scopo pubblico, perché semplicemente andremo ai live più importanti della stagione e saremo pronti, insomma, a passare in rassegna proprio qui ai microfoni di Radio Città Fujiko. Esatto, noi lo facciamo per voi, ricordatevelo, noi lo facciamo per voi. Persone oltre le cose. Persone oltre le cose. Detto questo, signore e signori, abbiamo appunto ascoltato Elvis Presley con The Devil in Disguise, brano del 1963. Sì. Bene, l'anno dopo esce un brano, ok, che tra l'altro è stato anche coverizzato da Elvis Presley, che è You Never Can Tell di Chuck Berry. Ora, perché abbiamo inserito Chuck Berry? Ma... per, penso, troppi motivi. Perché Chuck Berry non solo creò un modo di affrontare la musica, creò il rock and roll, quindi un nuovo modo di suonare la chitarra. Ricordiamo che il brano che ovviamente lo ha confermato come l'uomo che inventò il rock and roll fu proprio Johnny B. Goode del 1958 e praticamente lui non solo un nuovo modo di suonare la chitarra, un nuovo modo di porsi sul palco, perché nasce appunto con Chuck Berry tutto quel modo che poi ha portato ovviamente anche Elvis Presley di essere un sex symbol in un certo senso. Non solo è l'anno in cui la musica nera sale sui palchi per essere alla pari della musica bianca, ma allo stesso tempo nascono gli scandali, perché per esempio Little Sixteen appunto di Chuck Berry viene copiata dai Beach Boys per fare Surfing USA, quindi iniziano tutti quegli scandali per cui tanti brani magari della musica nera vengono appunto ripresi da artisti della diciamo British Invasion, ok, e vengono riproposti e nascono tutte quelle casistiche di plagio. Gli stessi Led Zeppelin sono protagonisti. Vero. Di questa cosa, per cui, ma quando ascoltate Led Zeppelin state ascoltando tantissima musica nera, tantissima. Esatto, e mi sono scordata anche di dire che c'è una casualità nel fatto che Elvis Presley nasce a Tupelo, che è nel Mississippi, il delta del Mississippi, ricordiamo tutti dove è nato il blues, e quindi non è un caso che Elvis Presley, un bianco che canta davvero e che congiunge in sé davvero le esperienze musicali e tutte quelle influenze della musica nera. Ma tanto lui si è posto anche sempre un po', cioè all'inizio lo volevano far nascere appunto come, diciamo, colui che poteva in un certo senso educare la musica nera, ed educare lo mettiamo fra tantissime virgolette perché è una cosa incredibilmente sbagliata, però allo stesso tempo lui invece si pose alla pari completamente, capito? E fu uno scambio di idee totale tra questi artisti. Comunque Chuck Berry, appunto, You Never Can Tell del 1964, dall'album From St. Louis to Liverpool, tra l'altro, guardate un po' il caso, lui è di St. Louis, ovviamente To Liverpool si riferisce a quella British Invasion che poi appunto è quella dei Beatles, o comunque di tutte le riprese anche che abbiamo ricordato dei Rolling Stones, anche ovviamente tutte le riprese della musica nera. E non è soltanto un'icona il personaggio, ma è un'icona anche il brano, perché il brano è diventato una vera e propria icona, un brano icona che tutti conosciamo, un brano che viene inserito in un film icona, che è Pulp Fiction. Ricordiamo ovviamente la scena epica nel senso che è bellissima, ovviamente, del ballo tra Vincent Vega e Mia Wallace nel bar interamente dedicato al cinema. Tu non hai mai visto Pulp Fiction? No, ho visto Pulp Fiction ma non mi ricordo il nome del bar. Non mi ricordo il nome del bar manco io, ma fa niente. Guarda comunque... come sei malfidente, guardala, tu non hai mai visto Pulp Fiction. No, perché ti ho visto fare il nonno con la testa e ho detto non hai mai visto Pulp Fiction. Vabbè, Madonna. Comunque, appunto, brano che è diventato iper famoso in quella scena, e ovviamente brano che ci ricorderemo per sempre. Come del resto Jack Barry è diventato ovviamente un simbolo, per esempio mi viene in mente Il Ritorno al Futuro, quando appunto lui sale sul palco e suona Johnny B. Goode, c'è il cugino di Chuck Berry che lo chiama e gli dice senti questa, fra 2 anni Chuck Berry avrebbe pubblicato Johnny B. Goode. Comunque ce l'andiamo ad ascoltare, Chuck Berry, You Never Can Tell, fine della prima ora di Bosco, ora di Bosco, pubblicità e poi torniamo qui in studio. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, said the old folks, goes to show you never can tell. They had a hi-fi phone, oh boy, did they let it blast. 700 little records, all rock, rhythm, and jazz. When the sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They bought a souped-up chitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. Rolling. I'm sorry, Charlie Murphy, I was having too much fun. Well, sometimes I go out by myself in a look across the water, and I think of all the things, what you're doing, and in my head. Just I come home, well my body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you like your dress. I want you to come on over and slap me. Valery, Amy Winehouse, ti ho stordito, vero? Non te l'aspettavi, non te l'aspettavi. Puntuali come un orologio svizzero, sono le 16.02 e Bosco sta per inaugurare la sua seconda ora, tutta all'insegna dell'icone musicale. Abbiamo appena ascoltato Amy Winehouse, che è stata pioniera in quanto a revival dello stile rockabilly, lo stesso lanciato da Elvis Presley. Ma soprattutto delle capigliature che uno fa anche fatica a capire come facciano a starle in testa, capito? In esattamente. Un certo senso. Scusate, chiudo la finestra, mi arriva uno spiffero sulla Se volete decifrare a modo vostro, se volete provare a indovinare le parole che Giuliana stava cercando di dire, scriveteci al 333 180 9494. E dato che siamo tecnologici, qui in via Zanardi 369 potete scriverci anche su WhatsApp. Abbiamo per l'appunto appena ascoltato Amy Winehouse, Occhi da gatta, questo cat liner meraviglioso, Cofana con almeno 110 cc di lacca. E ora invece approdiamo a quella che invece è una pioniera di uno stile futuristico. Lei nasce dal nulla, perché veramente nasce dal nulla, nel senso che raccoglie, secondo me è nata in una galassia completamente diversa ed è atterrata con una navetta sulla nostra terra, perché sennò non si spiega, non si spiega assolutamente. Lei come David Bowie, lei raccoglie un sacco di influenze soprattutto da David Bowie, ma in realtà crea un genere anche perché nessun artista dell'est, insomma dell'est Europa, non è nell'est, è nel nord Europa, comunque la geografia per noi è un'opinione, dell'Europa è stata cioè si è ribellata, diciamo, all'ideale occidentale della musica, ha creato un suo modo, un suo proprio linguaggio, un suo modo di esprimersi, ed è Bjork. Esprimersi sia attraverso le sue canzoni, ricordiamo tra l'altro che secondo me, se non erro, Bjork è una delle voci più precise e particolari nel panorama musicale mondiale, nel senso che c'ha una canna invidiabile, ma rivoluziona il panorama per quanto riguarda il suo stile. È eclettica, ha cambiato travestimenti, maschere, sfaccettature nel corso della sua intera carriera. Noi vi proporremo un brano non recente, ma in realtà io voglio parlare dell'ultima produzione, la più recente, che è Utopia, che è l'ultimo album che, diciamo, ha destato scalpore per quanto riguarda l'artwork e tutto, diciamo, il sistema pubblicitario. Mi è caduta la penna, si sente un clock della Bic, tutto, diciamo, l'apparato pubblicitario che si è portato dietro. Infatti Utopia fa vedere, insomma, la rubrica L'aereo di Fujiko. Lo sentite, eccola, anche voi? È tornata, vai. È tornato. Comunque, Bjork figura all'interno dell'artwork del disco con un make-up assolutamente futuristico, fatto da Angry, che è un noto make-up artist. Se non erro, fa drag o comunque è emula travestitismo, non lo so, diciamo che è gender fluid, me ne parlarono amici. Comunque Angry è un make-up artist favoloso. Se avete l'Instagram, cliccate subito la sua pagina, perché vedrete delle vere e proprie opere d'arte su pitturate sulle facce. Tra l'altro ha numerosissimi, trae numerosissime ispirazioni da quelli che sono i popoli aborigeni e comunque tutte quelle popolazioni lontane dal baricentro europeo, dato che siamo degli etnocentristi belli e buoni, colorate, feline, insomma. Bjork compare così, tra l'altro con questo make up piuttosto elaborato, e soprattutto compare in compagnia di un dildo di ceramica. E in particolare non è solo un dildo, ma è uno strapon. Ora, se non siete minorenni, andate su internet, digitate che cos'è uno strapon. Ora, non so se siamo in fascia protetta o meno, però è stata una vera e propria rivoluzione dell'immagine, perché è un oggetto per soddisfare i piaceri sessuali che viene piazzato in prima copertina di un disco di una delle artiste più, diciamo, stimate e privilegiate, prestigiose, diciamo, dell'intero panorama musicale. Noi ascoltiamo Venus as a Boy, un brano super famoso di Bjork, in cui lei figura con un lupetto arancione, due crocchie in testa e un make-up, proprio per parlare di make-up, pazzesco, nel senso che grazie a lei le Spice Girls hanno preso ispirazione palesemente, perché ha questo make-up quasi puntillism, puntellato sotto le occhiaie, e questi due crocchie quasi da Doremi in testa, che insomma hanno fatto scuola negli anni 90. Ci andiamo ad ascoltare Venus as a Boy di Bjork, godetevela. Excited. Gli arabeschi musicali di Björk ci accompagnano in quest'ultima ora di Bosco. Abbiamo appena ascoltato, ed è sotto di noi, Venus as a Boy, che è il secondo singolo tratto dal suo album di debutto del 1996, che si intitolava per l'appunto Debut. Come si dice? Debut album. Esatto, debut. Si chiama debut il debut album. Debut. Bene. Comunque, siamo appunto qui a parlarvi delle icone musicali più iconiche. Per icone iconiche, viva i bisticci. Ma ci sta perché i prossimi artisti, in un certo senso, sono delle icone iconiche. Esatto, delle icone iconiche, esatto. Covi. Perché? Esatto. Perché, Giuliona? Perché non esistono. Esatto. Questo artista non esiste, nel senso che sì, sappiamo chi sono, abbiamo visto i loro volti, soprattutto in occasione di premiazioni, ma in realtà questi sono dei veri, è una vera e propria cartoon band. Stiamo parlando di Gorillaz, che hanno appunto rivoluzionato l'estetica e l'immagine di una band proprio perché hanno creato degli alter ego grazie a famosissimi fumettisti e illustratori che rappresentano le personalità all'interno della band. Loro, insomma, tutti i dischi e tutti soprattutto i video musicali sono brulicanti di questi animaletti, mezzi uomini, mezzi animali, insomma molto colorati, molto cartoon, che fanno da veri e propri alter ego. Esatto. Insomma, la cosa particolare è che proprio viene meno il personaggio, cioè uno ovviamente si pone anche il problema del, perché ovviamente gli album dei Gorillaz pululano di collaborazioni, ovviamente, no? Quindi viene meno appunto quella che può essere la resa sul palco, perché la resa sul palco necessita di un sacco di componenti. È vero che comunque, diciamo, il nucleo piccolo comunque rimane lo stesso, però allo stesso tempo stiamo parlando di gente che fa anche ha anche altri progetti, ovviamente. I Gorillaz invece nascono proprio come band che non esiste, è un progetto che viene dato nelle mani di un disegno, di un pezzo d'arte, di fatto, perché non possiamo non parlare di pezzo d'arte, capito? Esattamente. Tra l'altro vi consigliamo di andare a guardare il video, perché come sempre è molto più esplicativo rispetto alle nostre parole, soprattutto musica e visual art insieme. In questo caso video doesn't kill the radio star, insomma. Esattamente. Penso di aver non so se l'ho detto giusto, ma no, fa niente. L'hai detto, secondo me è giusto. L'ho detto sicuramente. Diana Taylor, se sei all'ascolto, contattaci 333-180-9494 e a buona scozzese correggici. Comunque stavo dicendo che visual art e musica, un connubio inscindibile per quanto riguarda i Gorillaz. Su Melancholy Hill, On Melancholy Hill, che è la canzone che andremo ad ascoltare fra pochi istanti, loro dicono: On Melancholy Hill è quella sensazione, quel luogo che si raggiunge solo poche volte nella vita. È come quando date la vostra anima a qualcuno. È bello rompere l'album con qualcosa di un po' più leggero. Infatti, On Melancholy Hill è un singolo, il quarto estratto dal terzo album in studio, che è appunto Plastic Beach, ed è un po' dissonante rispetto a quello che è il mood musicale della band. Non ci resta che ascoltarlo e farvelo notare anche a voi. On Melancholy Hill, Gorillaz. On Melancholy Hill, Gorillaz. Siamo qui ritornati negli studi di Radio Città Fujiko. Io sono Giuliona. Io sono Ilona. È bene ricordarlo sempre. Esatto. E soprattutto, come si chiama questo programma? Bosco. Bosco. Si chiama Bosco. E oggi è allieta tutti i martedì qui su Radio Città Fujiko dalle 15 alle 17. Da un orario a caso imprecisato. Ilona, il grande piacere ospita di avere l'amico ospite Giulioni. Esatto. Comunque io volevo chiederti come si chiamava, ecco, ancora una volta piglio a cazzate il microfono, volevo chiederti come si chiamava il nostro programma, perché finalmente le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori potranno sapere da dove viene il nome. Stai già piangendo? La vedo molto commossa. Ha dei problemi. No, è Rossa Paonazza. Comunque, allora. Spiega, dato che comunque ci stava bene in questa puntata a piazzarci questa band, come se poi non lo facessimo mai. Esatto. Spieghiamo perché allora, abbiamo scelto Bosco come nome di Bosco. In un giorno di marzo, io e tra l'anniversario, Giuliana, oddio, tanti auguri, angurie. Mo piango, va bene. Che brutta cosa questa degli anniversari, comunque dei compleanni. E in un giorno di marzo ci siamo ritrovate a pensare a quale potesse essere appunto il nome giusto per un programma come il nostro. Ci siamo rese conto di avere una passione sfegatata per un gruppo in comune, anche chiamati Rubrica dell'Aeroplano. Si chiamano in Rubrica dell'Aeroplano e hanno fatto una cover. No, scherzo. E praticamente noi, tra l'altro, l'8 marzo ci siamo regalate a vicenda il biglietto per andare a sentire i Placebo a luglio, brano che ovviamente abbiamo amato alla follia, l'abbiamo ascoltato piangendo insieme eccetera, fu appunto Bosco, e da lì ci siamo rese conto che Bosco potesse essere un nome puntuale per la nostra trasmissione, perché appunto non solo ricorda la nostra canzone preferita della band che abbiamo in comune, ma parla appunto di un bosco, di un luogo in cui intrufolarsi, un luogo in cui addentrarsi, e questo luogo per noi è la musica e ovviamente fare Perfetto. Tutte le scoperte del caso. Ovviamente noi ci siamo un po' perse e quindi siamo andate a cercare tartufi nel bosco della musica, però alla fine qualche fungo alla fine l'abbiamo trovato. Detto questo, ovviamente questa bellissima introduzione per parlarvi del prossimo brano, che è appunto Bosco dei Placebo. E mi raccomando, andatevi ad ascoltare la versione degli MTV Unplugged e piangete insieme a noi. Grazie. Esatto, e se proprio ci causate così tanti danni morali o noi li causiamo a voi, vi ricordo che al 333-180-9494, anche con WhatsApp, potete mandarci il vostro IBAN oppure chiederci il nostro, così insomma ci diamo i danni a vicenda, no? Esatto. Paghiamo i danni a vicenda. Bosco è tratto da Loud Like Love del... Non lo so. 2000... E uno? Non mi ricordo, vabbè, scrivete. Lo cerco subito. Scrivetecelo al 333-180-9494 e appunto, secondo me, ovviamente, la versione migliore che esista è quella degli MTV Unplugged, la trovate tranquillamente, ma trovate l'intero concerto degli MTV Unplugged sul tubo, se non sbaglio, andatelo a sentire perché merita veramente, veramente tanto. È uscito nel 2013. Ecco. E praticamente appunto Loud Like Love, che comunque è considerato uno dei peggiori album, sì, dei Placebo, ma ha partorito secondo me alcune perle quell'album, tra cui appunto Bosco. E ovviamente abbiamo inserito i Placebo non per autoreferenzialità, sì proprio per questo, ma soprattutto perché ovviamente stiamo parlando di un personaggio che è Brian Molko ha diciamo in un certo senso creato un modo di stare sul palco, un modo di affrontare appunto anche le interviste, Brian Molko, ok? E anche uno stile proprio di vestiario, se non sbaglio, i gonnelloni, esatto. Uno stile un po' emo, il casual, questo gender fluid, non si capisce se è uomo o donna, quindi una spiccata fluidità in fatto di genere, che insomma è auspicabile, esatto, oggigiorno in fatto concettuale e culturale. Unghie pitturate, trucco caricato, taglio di capelli ambiguo, insomma è stato per anni il manifesto dell'ambiguità. diciamo, da tutti i punti di vista, anche poi musicale, perché sono numerose le fonti da cui attingono i Placebo. Per esempio, questa è una canzone palesemente atipica rispetto a tutti, diciamo, il sound proprio dei Placebo, esatto, la loro cifra stilistica. Tant'è perché che una non canzone... la ripropongono nemmeno ai concerti. Esatto, è rarissimo che la facciano ai concerti, quindi noi direi che possiamo andarci ad ascoltare Bosco dei Placebo, una pausa pubblicitaria e poi ritorniamo qui. Something's getting in the way. I do you harm because I can. For the second time today. Victims we are not of happenstance, but you're a victim all the same. Stuck inside a circumstance with your confusion and your blame. And when I get drunk, you take me home and keep me safe from harm. When chance, but then I drink it all away, and I get bellicose when you react, full of frustration and dismay. I was so delicate when we began, so tender when I spoke your name. To my compulsion and my shame. And when I get drunk, you take me home and keep me safe from harm. When I get drunk, I appreciate, but in fact it's baleful how I suck you dry, how I suck you dry, how I suck you. Questionable taste. I've such duplicity at my command, so I keep on lying to your face. Then I run away to Wonderland, disappear without a trace when I get drunk. You take me home and keep me safe from harm. When I get drunk, you take me home. You know I'm grateful. I appreciate. Con Robot Rock siamo su Bosco, io sono Ilona, io sono Giuliona e stiamo concludendo, ormai siamo nell'ultima mezz'ora di questa puntata di Bosco che vi ha tenuto compagnia, ci ha tenuto compagnia appunto in questo martedì 13 marzo e appunto stiamo parlando di icone, di estetica all'interno appunto della musica, di personaggi che hanno fatto dell'estetica o di un modo di agire o di un modo di affrontare e di interpretare la musica qualcosa di iconico. Appunto non potevamo non nominare i Daft Punk in quanto non solo si sono confermati come icona anche a livello di marketing, perché non si fanno vedere, sono sempre mascherati, hanno appunto creato un personaggio di fatto, ma hanno anche ovviamente fatto la storia per quanto riguarda l'ambito della musica elettronica, perché sono in assoluto il primo gruppo di musica elettronica che ha raggiunto un livello altissimo di vendite e anche un ottimo responso da parte della critica. Curiosità: perché si chiamano Daft Punk? Daft Punk è uno di quei termini che è stato coniato apposta per la loro musica. Oh. Pensa te. Nel senso che il duo francese dei parigini Guy-Manuel de Homem-Christo e Thomas Bangalter, non lo pronuncerò mai più, avevano praticamente, facevano parte di un gruppo che si chiamava Darling, e su una rivista britannica che si chiamava Melody Maker, che si chiama tuttora Melody Maker, vennero definiti un gruppetto di stupidi teppisti, a Daft Punky Trash. Ah, e proprio questo termine, questo modo di descrivere la loro musica, il loro modo di affrontare, ma soprattutto anche di deriderli, è diventato poi ciò che loro sono, i Daft Punk. Fine. Wow, fine, assolutamente. E se loro modificano sbam proprio, se loro modificano la storia della musica sotto mentite spoglie, possiamo dire, esatto. C'è chi invece ci mette la faccia. Ora, sicuramente io già sento urla dall'altro stanzino, rischiamo come sempre di essere licenziate dai palinsesti, comunque che no. Un po' come è successa tra Vaglio e Luttazzi, no? Nel 2001, Travaglio fece questa intervista che diede scalpore ai microfoni di Luttazzi e la Rai tolse Satirico, il programma celebre di Luttazzi, dal palinsesto. Ecco, così succederà. No, in realtà il nostro direttore è per la libertà di espressione e di opinione, soprattutto lui per... ci prova ogni volta ad eliminare Bosco, non ce la fa perché noi ci imponiamo nel palinsesto di fatto. Raffaella Carrà, l'ho detto, mettiamo le mani avanti. Raffaella Carrà è stata ed è tuttora un'icona di stile. Mm-hmm. Parte con un look alla Marina Retta, era una piccola Marina Retta negli anni 60. Negli anni 70 tira fuori dal suo guardaroba minigonne e maglie corte. Per la prima volta un artista fa vedere l'ombelico in segno di ribellione al patriarcato. Infatti ricordiamo che anche per quanto riguarda l'aspetto amoroso, la Carrà ebbe numerosissime storie d'amore con uomini, non si è mai sposata, ma soprattutto rimase amica dei suoi ex compagni. E se non erro, se non sbaglio, mia mamma mi raccontava che la Carrà stava con Bon Compagni. Ciao Mimi! Un autore televisivo, insomma, di tutto rispetto. Ma comunque, a parte il gossip, lei era una donna autodeterminata che decide di tirar fuori l'ombelico, decide di indossare delle auto reggenti in prima serata sulla Rai insieme a Mina negli anni 80 e decide di fare un gran ritorno nel 2007 su appunto in televisione, sui grandi schermi e sui piccoli schermi soprattutto, con il suo caschetto biondo iconico. Da quando la Carrà si è tinta di biondo i capelli, un'orda di donne è andata dal parrucchiere con la foto della Carrà dicendo: io li voglio proprio così. Quindi non si poteva non trasmettere una canzone della Carrà, che poi quale è un bel problema, perché esatto. Abbiamo scelto Pedro. Ora, Pedro è una canzone molto curiosa. Allora, dal punto, vi dico prima le cose positive, poi diciamo un po' le cose controverse. Dal punto di vista ritmico, sostanzialmente è una versione ritmata della Siciliana, che è una composizione che si trova nel concerto per flauto numero 2 di Johann Sebastian Bach. Voi lo sapevate? Io no. Esatto, quindi è bene saperlo, soprattutto nel ritornello si sente tantissimo. Per quanto riguarda invece il testo di questa canzone, c'è da approfondirlo, perché sostanzialmente è un testo molto ironico che descrive l'avventura di un turista in vacanza a Santa Fe con un ragazzino di nome Pedro. Pedro in un primo momento si offre come guida turistica di Santa Fe e successivamente diventa l'amante del turista. Insomma, scandalo per quell'epoca. Faccio coming out e ammetto di aver sempre cantato Saint-Tropez. Ah, no, io sapevo Santa Fe. No, io ho sempre cantato Saint-Tropez. Interessante. E ho scoperto con questa playlist, tra l'altro, che era Santa Fe. Cioè, voi pensate a tutti quei Domenica Italiana nelle varie discoteche del Salento Sud, che già il Salento è a sud, ma il Salento Sud è ancora peggio, ok? C'è la Domenica Italiana e ovviamente passano Pedro della Carrà, io ho sempre cantato Saint-Tropez. Adesso ci correggeremo tutti quanti. Comunque, Pedro, storia di un amore omosessuale. Se sbaglio, voi mi correggerete. Esatto, se sbaglio. Storia di un amore omosessuale, 1980, la Carrà pioniera di stile, andiamocela ad ascoltare. attentamente i monumenti. La classica straniera con un'aria strana che gira stanca tutta la città. A un certo punto della passeggiata mi chiama da una parte un ragazzino. Sembrava a prima vista tanto per benino, si offre a far da guida per la città. Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, praticamente il meglio di Santa. Questa è ed era Pedro di Raffaella Carrà. Errata corrige la storia di un minorenne con una donna invece molto matura. Mi correggo perché abbiamo dato dati sbagliati e mai sia, non siamo più per le fake news. Esatto, esatto, esatto, esatto. Tra l'altro, ovviamente noi potevamo citare un sacco di altre icone, vedi Freddie Mercury, vedi la recentissima Lady Gaga, ma per quanto riguarda Lady Gaga, ovviamente ci sentivamo anche in dovere di citare più che altro la persona da cui lei è nata, che di fatto è Raffaella Carrà, perché i riferimenti sono iperpalesi, ma la Carrà ha proprio dato un modo ha creato proprio un modo, uno stile appunto per stare sul palco e fare musica. E non è l'unica, perché la persona che stiamo per andare ad ascoltare è un'icona italiana, un'icona dalla voce strepitosa, testi meravigliosi. Stiamo parlando di Renato Zero, che oltre ad essere ovviamente un bravissimo artista, è anche un trasformista, Renato Zero, perché anche lui è uno di quei personaggi che esce dall'era dei costumi, dall'era appunto del glam sul palco. E un brano che a me piace moltissimo personalmente è tratto da Trapezio del 1976, e questo brano è Madame, e secondo me ce lo possiamo andare tranquillamente ad ascoltare subito. Vero Giulio? Assolutamente, Madame Renato Zero. Mi dipello sta proprio qui. Uomini intorno a te, ce ne fila anche tre per tre. E la tua compagnia si fa sempre più un'utopia. Zero sotto di noi con Madame, ricordiamo, da Trapezio del 1976. Questo era il penultimo brano della nostra puntata di Bosco, cara la mia Giuliona, di questo martedì 13. Noi siamo appunto in dirittura d'arrivo e ovviamente non potevamo non chiudere con l'icona più, diciamo, da copertina, potremmo definire, da rivista, in assoluto, degli anni 90, 80 e 90. Stiamo parlando di Madonna e questa nostra puntata, che appunto abbiamo dedicato all'estetica, appunto al glam e alle icone che sono apparse appunto nel mondo della musica, non potevamo non concluderla con Vogue, appunto, di Madonna, e ce l'andremo anche a ballare in privato nello studiolo di Radio Città Fucico prima che il capo, il boss, arrivi a fare l'indigesto. Esattamente, sono tantissime tra l'altro le donne che hanno modificato dall'interno tutta questa concezione iconica. Io personalmente vado sempre a prediligere quelle che lo fanno con un moto di ribellione alle costruzioni culturali e sociali. Una di queste è Madonna, tra l'altro, anche se poi diciamo che un po' l'andazzo è cambiato, e mi piace molto. Tra l'altro, in quest'ultimo anno è fiorente, proprio brulica di nuove personalità femminili che scardinano dall'interno le concezioni e le costruzioni culturali. Mi viene in mente FKA Twigs, mi viene in mente la stessa, vabbè, Lady Gaga, assolutamente, tutto, che hanno cercato di costruire l'immagine di una donna, ma di una donna che non ha poi risvolti o implicazioni sul piano sessuale, sicuramente. Esatto. Perché un'artista nuova che sta facendo questo lavoro molto pop, ovviamente, è Dua Lipa. Dua Lipa sta cercando di riproporre nei suoi video una donna forte, una donna che non ha bisogno di riferimenti sessuali all'interno dei video, di riferimenti sessuali all'interno dei testi. E mi piace molto, anche l'estetica dei video mi piace veramente tanto. E davvero non è per niente volgare, perché poteva essere veramente tanto volgare, ma non lo è per niente, capito? E vediamo comunque questo nascere, appunto, di, fortunatamente, di artiste che portano avanti comunque questa idea. Il brano di Vogue, il brano di Madonna, Vogue, è tratto da I'm Breathless del 1990, e con questo appunto vi salutiamo, cari amici di Bosco. È stato un piacere, è stato divertente. giocare in compagnia. In allegria, Giuliona. Vabbè, dai, su. Io non me lo ricordo più, ho avuto un'infanzia molto triste. Io guardavo le interviste di Marco Travaglio da Luttazzi quando ero piccola. Possiamo ovviamente capire i disturbi mentali con i quali sei cresciuta, ma fa niente. L'Orso Verne, la grande casa blu, rimarrà per sempre nei nostri cuori. Anche perché io so, conosco quella versione, ma la conosco nella versione bestemmia. Bene. Comunque, vabbè. Ora, noi ci salutiamo, ci sentiamo martedì prossimo, sempre dalle 15 alle 17 su le frequenze di Radio Città Fucico 103.100 FM. Se proprio non vi siete stancati di noi, magari è la prima volta che ci ascoltate, non lo so, volete conoscerci meglio, volete inviarci i vostri ricevere, ovviamente inviarci i vostri soldi e ricevere in cambio i nostri indumenti pezzati dai primo sole di marzo, potete ascoltarci su Spreaker, sul portale Spreaker, sulla una web radio che è Bud, con il nostro programma tutto dedicato alla musica emergente che si intitola In Music. Ora vi lasciamo a Vogue di Madonna e subito dopo la pubblicità l'indigesto. Ciao. Gave good faith, Lauren, Catherine, Manitou, Betty Davis. cold, cold, cold, cold.